Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ve l'hanno già augurata le signorine buonasera della sigla? Però la buona serata vi arriva anche da Giulio Caperdoni, come succede tutte le sere fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Un ringraziamento ad Edo per avervi accompagnato fino a qua, un benvenuti su queste frequenze, sia che stiate ascoltando in diretta, quindi appunto dopo il programma di Edo, sia che stiate ascoltando in differita, grazie al podcasting. Giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail da utilizzare nel caso vogliate scrivermi e nel caso vogliate entrare a far parte della lista nera. Quando ci fu la prima sorpresa, la candidatura alla presidenza di Charles A. Lindbergh, l'eroe dell'aria americano famoso in tutto il mondo, alla Convention Repubblicana di Filadelfia del giugno 1940, mio padre era un assicuratore di 39 anni, munito di licenza media, che guadagnava quasi $50 alla settimana, abbastanza per pagare in tempo le bollette più importanti, ma non abbastanza per permetterci altri lussi. Questo era l'incipit de Il complotto contro l'America, di Philip Roth. Body. made me understand that I was wrong, that the choice to pull this lever is not mine to make. Why? Because this world, the world that I'm a part of and that I helped shape, will end tonight. And tomorrow a different world will begin that different people will shape. And this choice belongs to them. You say you love me, but I don't have any proof. And if you left me, it would break my heart in two. Split like a wishbone part for me, but most for you. And what would you wish for? There's so many things to lose. And I need all that I have to prepare Sono state due città diverse, quelle in cui siamo stati grazie alla musica. C'è una terza dove stiamo per andare. Sapete, mi piace legare la geografia con la musica, la geografia con le cose che vi presento. I primi sono arrivati dal Minnesota, da Minneapolis per la precisione. Erano i Cloud Cult con When Water Comes to Life. Poi ci siamo trasferiti a Lawrence, nel Kansas, 4th of July. Questo è il nome della band che ha appena chiuso. Heart Attack, e ci trasferiamo invece in Norvegia, a Bergen per la precisione, da cui proviene il trio che ben conosciamo qua in Eclettica, gli Ungdomsskolen, scuola media nella loro lingua natale, trio norvegese che ben conosciamo per la lunga Ordinary Son, passata veramente tanto nei mesi scorsi. Ungdomsskolen che incidono per la Ever, un'etichetta che a differenza di altre ha scelto fin dall'inizio di non voler privilegiare un sound in particolare, non caratterizzarsi per un certo suono, ma di cercare di realizzare musica di spessore, musica destinata a rimanere importante nel tempo, musica forever, e da qui il nome dell'etichetta stessa. L'album è sempre Cry Baby, quello che ben conosciamo, però da quell'album verrà estratto un brano, Modern Drummer, che ci stiamo per ascoltare, e pubblicato come singolo solo in forma digitale a partire dal 1 di aprile. Modern Drummer, quindi, per gli Ungdomsskolen. Thank you. Englishmen. Tonight, our country, that which we stand for, and all that we hold dear, faces a grave and terrible threat. This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended or unpunished. Our enemy is an insidious one, seeking to divide us and destroy the very foundation of our great nation. Tonight, we must remain steadfast. We must remain determined. But most of all, we must remain united. Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception. Tonight, I give you my most solemn vow that justice will be swift. It will be righteous. And it will be without mercy. il giovanissimo trio di nome Our Brother the Native, giovanissimo trio che proviene da Flint nel Michigan, che ci siamo ascoltati con il pezzo intitolato As They Fell Beneath Us. E si torna, dopo essere passati dall'altra parte dell'oceano, si torna di qua in Europa, per la precisione in Belgio, perché con soddisfazione, e sottolineo con soddisfazione, vi devo dire che i Girls in Hawaii sono usciti con il nuovo disco e non hanno deluso. A differenza di molte band che magari con un album, con qualche canzone, riescono a convincere e poi non si confermano. Invece la band belga, anche con questo nuovo Plan Your Escape, ha trovato una manciata di buone canzoni. A partire proprio da quella che apre l'album, che ne contiene un totale di 14. Si chiude con la canzone che lo intitola Plan Your Escape e si apre con questa: This Farm Will End Up in Fire.